in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi è uno di quei giorni in cui i quotidiani hanno titoli molto simili, sono sostanzialmente due gli argomenti trattati, la visita del Papa a Lesbo e il referendum per il quale si è iniziato a votare da 18 minuti per la precisione. Fa eccezione il Sole 24 Ore, da cui cominciamo, perché il titolo di apertura è dedicato al fondo salvabanche, che può sembrare una questione molto tecnica, ma in realtà, visto tutto quello che è successo nelle banche in Italia e in Europa e non solo, è molto più importante, ci tocca molto più da vicino di quel che può sembrare. Allora il titolo: il fondo salvabanche supera l'esame del G20. Sapete, il G20, il summit a cui hanno partecipato tutti i ministri dell'economia e delle finanze dei 20 paesi considerati più importanti del mondo. Il commento di Donato Masciandaro: la forza di Atlanta nasce dal mercato. Anche in prima pagina un'altra questione che anche qui forse sembra non toccarci direttamente, in realtà ci tocca molto direttamente, ed è sul vertice che si tiene oggi a Doha. Tutti i grandi produttori dell'OPEC, la più grande organizzazione dei produttori di petrolio del mondo, ma c'è anche la Russia, non c'è però l'Iran. Si era parlato di tagli alla produzione che quindi diminuendo l'offerta potrebbero far risalire il prezzo, perché sapete che il prezzo del petrolio adesso è considerato veramente troppo basso. Adesso però l'Arabia Saudita pare frenare. Vediamo appunto cosa succederà oggi a Doha. In prima pagina anche un articolo che poi trovate a pagina 21 di Armando Torno, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene per la sua trasmissione sulla musica classica, grande innamorato di Milano, che ci racconta appunto come Milano ritorni la capitale della creatività. Il riferimento è al Salone del Mobile, che si chiude oggi, tra l'altro ieri e oggi. Una volta era soltanto l'ultima giornata, adesso c'è stato anche ieri, stabilendo nuovi record, come vedremo. Ieri e oggi, per l'appunto, dicevo, il Salone del Mobile, che è una fiera riservata agli operatori e che quindi per i primi 5 giorni è stata appunto non aperta al grande pubblico, oggi è aperta a tutti. Dalla lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, oggi è dedicata a Safilo, la seconda azienda al mondo di occhialeria, dopo Luxottica naturalmente, che oltre a essere la prima in Italia è la prima al mondo. Subito dopo viene Safilo e Vittorio Carlini spiega il rilancio dei ricavi dai marchi propri, focus sui costi. È interessante questo articolo perché spiega come sia proprio anche come stia cambiando il settore degli occhiali e delle licenze. Ricordiamo che appunto l'Italia, grazie a Luxottica ma anche a Safilo e ad altre aziende tutte localizzate nel distretto del Bellunese, in Veneto, l'Italia è leader assoluta in questo settore degli occhiali di media gamma e alta gamma. Passiamo subito all'Avvenire, perché oggi naturalmente l'Avvenire dedica quasi 8 pagine a quello che ha fatto ieri Francesco a Lesbo. Il titolo è Il cuore oltre i recinti. La fotografia scelta è di Francesco che prende tra le sue mani la mano di un bambino molto piccolo, a giudicare da quanto si è dovuto chinare il Papa. Francesco, Bartolomeo e Hieronymus, naturalmente i due esponenti della Chiesa ortodossa, consolano i migranti del campo di Lesbo. Non siete soli, non perdete la speranza. E come vi dicevo, ci sono poi, le vedremo, tantissime pagine. In prima pagina l'editoriale è affidato a Stefania Falasca, che a Lesbo è andata fisicamente, il titolo di questo editoriale è Radice d'Europa, il gesto cristiano del soccorso, ma vedremo poi come l'Avvenire appunto riporta tutti gli interventi di Papa Francesco a Lesbo e anche moltissimi commenti. Come vi dicevo, a partire dal Corriere della Sera, i titoli sono quelli, cioè da una parte Migranti, il gesto di Francesco, e qui la foto è quella di Francesco con addirittura proprio in mano in braccio un neonato, e poi il titolo sul referendum alla prova del quorum, Renzi, nessuno strumentalizzi il voto. Vi segnalo dalla prima pagina una intervista che poi trovate a pagina 16 di Paolo Valentino al ministro degli esteri dell'Iran. Iran pronto alle misure necessarie sui diritti umani. Questa è una questione molto dibattuta, quella del fatto che siano cadute tante barriere commerciali con l'Iran. Anche settimana scorsa sono stati firmati nuovi importanti accordi, resta però il nodo nodo dei diritti umani, che a volte è un tabù. Quando appunto si sciolgono le barriere commerciali con questi paesi, restano però le violazioni che tutti conoscono, ma molti fanno finta di non conoscere, dei diritti umani. Sappiamo come questo sia verissimo anche per l'Egitto. Abbiamo visto nei giorni scorsi la polemica anche rilanciata dal New York Times sul fatto che alcuni paesi facciano finta di niente. La Francia sta per firmare accordi commerciali per 1,1 miliardi di euro con l'Egitto e quindi tace sulla vicenda Regeni, per esempio. La Repubblica, fotonotizia in questo caso, è del Papa con i migranti, che sapete, in questo caso la foto è stata scattata non a Lesbo ma a Ciampino, e ritrae il Papa che scende dall'aereo con i profughi siriani che lui ha portato da Lesbo, le tre famiglie simbolo, che adesso verranno ospitate dalla comunità Sant'Egidio. L'analisi di Alberto Melloni, quella carezza, schiaffo al mondo. Vi leggo le prime parole, poi trovate il pezzo a pagina 23. Con la visita a Lesbo, Papa Francesco ha deciso di esporre sul fronte politico più caldo di questo momento tutta la sua forza e tutta la sua impotenza. Ha compiuto un gesto che si scrive nel quadro dei grandi gesti profetici e apocalittici mancati ai decenni recenti. E poi il titolo sul referendum, la battaglia del quorum. Come vedete, non soltanto gli argomenti sono molto simili, ma anche i titoli. La Stampa, il Papa ai migranti, piango con voi. La foto è praticamente la stessa di quella della Repubblica, scattata quindi a Ciampino con le famiglie dei profughi siriani. Il commento è affidato al priore di Bose, Enzo Bianchi, l'ecumenismo della carità. E poi sulle trivelle, sul referendum, trivelle alle urne con il rischio quorum. Messaggero, l'Europa rispetti i migranti. In questo caso la foto è del Papa scattata a Lesbo con appunto un migrante. Vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero, oltre al titolo sul referendum appeso al quorum, un'intervista a Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, che prende lo spunto un po' dalle imminenti elezioni amministrative di primavera. Serve una legge sulle liste pulite. Libero, un sobrio titolo, musulmani in Vaticano, il Papa prende 12 profughi, le tre famiglie di profughi siriani di cui parlavamo prima, ne lascia a Lesbo 3.988. Viaggio lampo di Francesco tra i 4.000 rifugiati nell'isola greca. Grande commozione, frustrata l'Unione Europea, gesto simbolico, ma il problema resta, anzi così rischia di aggravarsi. E vi confesso che io ho fatto una scommessa con me stessa per vedere se oggi ci sarebbe stato il consueto attacco di Antonio Socci a Papa Bergoglio su Libero. E tra me avevo detto no, su questo non può attaccarlo, su questa visita a Lesbo. E invece no, c'è un articolo che inizia a pagina 9, occupa un'intera pagina, che inizia in copertina e poi continua a pagina 9, la occupa tutta, e vi leggo le prime righe, ed è appunto il consueto attacco di Antonio Socci a Papa Francesco. Migranti morti nel Mediterraneo dal 2000 a oggi, secondo calcoli approssimativi, sono circa 27.000. È un'orribile tragedia e va fermata, ma da qui a definirla, come ha fatto ieri Papa Bergoglio a Lesbo, la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale, ce ne corre. Debole in teologia, l'attuale vescovo di Roma appare debolissimo in storia contemporanea. E qui ad elencare tutte le altre tragedie che secondo Antonio Socci sono più gravi. Naturalmente, al di là della cifra 27.000 morti, il riferimento al Papa credo sia anche appunto al fatto che questa tragedia non sta soltanto nelle persone morte, ma proprio nelle persone che devono abbandonare il loro paese e che vanno incontro a un futuro tutt'altro che incerto. Ma tant'è, Antonio Socci, appunto, questo durissimo attacco a Papa Bergoglio e alla sua visita a Lesbo. Il giornale, si vota e Renzi ha paura, quindi il titolo non è proprio su Papa Bergoglio ma sul referendum di oggi. In prima pagina però c'è anche il Papa porta in Italia tre famiglie islamiche. Due i commenti, uno di Magdi Cristiano Allam, oltre che dei migranti si ricordi anche dei cristiani perseguitati, e uno di Renato Farina, ma un pontefice deve essere vicino a chiunque soffra. L'Unità ha una bellissima foto di Papa Francesco di spalle, ma con delle donne che gli sorridono con in braccio i loro bambini. Papa Francesco dal campo profughi di Lesbo scuote l'Europa. Serve un miracolo e un piano Marshall. Ultimissimo titolo prima di lasciarci un attimo per la pausa e anche con le notizia sul meteo. Noi votiamo, il titolo del Fatto Quotidiano, che ha fatto una grande campagna per appunto andare tutti a votare. Poi il manifesto, il vecchio o il mare, con la foto di una vecchia piattaforma petrolifera al largo di Ravenna, una di quelle che non è più in uso. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra un po' per gli articoli all'interno dei giornali. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Passiamo dalle prime pagine, come abbiamo visto, tutte dedicate sostanzialmente alla visita di Papa Francesco a Lesbo e al referendum di oggi. Si è iniziato a votare esattamente 34 minuti fa, si può votare fino alle 23, ma vediamo le pagine interne. Abbiamo visto come il Sole 24 Ore apre sul G20, il titolo era dedicato al fondo per il fondo Atlante, quello deciso questa settimana per salvare le banche, per mettere il sistema bancario in definitiva sicurezza. Non si è parlato solo di quello, ovviamente, al G20, a cui partecipano i ministri dell'economia e delle finanze dei 20 paesi considerati più importanti al mondo, e quindi a pagina 4 trovate il reportage di Alessandro Merli, perché abbiamo parlato tanto di Lesbo, quest'isola greca, uno delle prime frontiere che i migranti incontrano, ma c'è la Grecia, è, come sapete, al centro delle discussioni internazionali anche per la sua crisi economica. E allora il titolo del pezzo di Alessandro Merli: altri 3 miliardi di austerity per la Grecia, spunta un'ipotesi di misure aggiuntive da concordare con i creditori internazionali, e di questo sicuramente si tornerà a parlare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Vi segnalo sul referendum, non tanto un articolo sul referendum, ma a proposito di quello che spesso chiamiamo reality check, cioè vediamo i numeri, perché si sono fatte tantissime chiacchiere su questo referendum. E allora a pagina 9 del Sole 24 Ore trovate l'analisi di Jacopo Giliberto, che tra i colleghi di Imprese e Territori è probabilmente il massimo esperto di questioni energetiche, di politica energetica che abbiamo al Sole 24 Ore. Interessati l'impatto economico, interessati 44 giacimenti e 90 piattaforme in mare. Pesa di più il metano del petrolio, però senza questi impianti l'Italia dovrebbe importare 562 milioni di metri cubi di gas in più. I dati sull'affluenza del Salone del Mobile, che oggi si chiude a Milano. L'articolo di Laura Cavestri e Giovanna Mancini lo trovate alla pagina 15 del Sole 24 Ore. Salone del Mobile, affluenza record, con i primi commenti del presidente di Federlegno Roberto Snyder, stand affollati e clima di grande entusiasmo fra gli espositori. Vi dicevo, sull'Avvenire trovate tutta la copertura, la più completa possibile, della visita del Papa a Lesbo, con la preghiera che ha fatto Papa Francesco quando è arrivato, ma anche il suo intervento, e poi anche il discorso dell'arcivescovo di Atene, primate della Chiesa Ortodossa, Hieronymus II, durante l'incontro con i profughi. Il titolo, naturalmente, forse più forte, più d'impatto, almeno secondo me, il virgolettato più forte di Papa Francesco è: i migranti sono persone, non numeri, a proposito del titolo di Libero che abbiamo ricordato. Come vi dicevo, insomma, sono le prime 8 pagine di Avvenire dedicate, le prime 9 pagine dedicate alla visita di Papa Francesco a Lesbo. Dal Corriere della Sera, visto che abbiamo detto anche come abbiamo visto l'intervista di Raffaele Cantone sul Messaggero, che riapre la questione delle cosiddette liste pulite, cioè di avere liste di candidati alle amministrative o alle politiche che ci saranno forse nel 2017, secondo alcuni forse anche prima. A proposito appunto di liste pulite e a proposito di elezioni, sul Corriere della Sera, pagina 13, trovate un'intervista di Elisabetta Soglio a Giuseppe Sala, il candidato del centrosinistra a Milano per la poltrona di sindaco. Dice: non guardo ai numeri, l'effetto Expo c'è ancora. E poi l'intervista, alla quale viene data esattamente lo stesso spazio, giustamente, di Maurizio Giannattasio all'altro candidato forte, Stefano Parisi, per il centrodestra: credo nei sondaggi, ma la vera scommessa è convincere gli indecisi. Un altro articolo interessante al Corriere della Sera, pagina 15, questa è stata forse una delle prime dichiarazioni anche che ha fatto il nuovo presidente dell'ANM, Piercamillo Davigo, protagonista, lo ricorderete, della stagione di Tangentopoli di Mani Pulite, ed è la questione delle cause arretrate che bloccano i nostri tribunali. Però si scopre anche che una delle cause, dei motivi di queste di questa montagna di cause arretrate è che l'Italia è un paese molto litigioso, cioè in Italia a noi italiani piace molto fare causa, allora tantissime cause, e poi alla fine appunto lentezza dei tribunali civili, aumentano i processi d'appello più vecchi di 3 anni. Pensate, le cause arretrate, ci spiega Federico Fubini, sono 4,5 milioni. Dalle pagine interne della Repubblica, dopo il cancan dei primi 2 giorni dopo la morte di Gian Roberto Casaleggio, che insieme a Beppe Grillo ha fondato nel 2010 il Movimento 5 Stelle, si è un po' fermato questo grande discutere sulla successione, soprattutto e sulla figura di Davide Casaleggio, figlio di Gian Roberto Casaleggio, e per tutti che cercano di capire se sarà davvero l'erede del padre, se non altro nella gestione del blog, della gestione di tutta la parte web del movimento, che ha fatto grande anche il movimento, lo ha fatto crescere secondo molti così in fretta. E la Repubblica ci aggiorna su tutti i giochi di successione che ci sono all'interno, secondo la Repubblica, naturalmente secondo la ricostruzione di Annalisa Cuzzocrea, l'alto là dei grillini a Di Maio premier. Sapete che nei giorni scorsi era circolata anche questa possibilità, cioè che se e quando ci saranno le elezioni, cioè le elezioni ci saranno sicuramente, però non sappiamo se saranno anticipate o meno, comunque questa possibilità che Luigi Di Maio si candidi come appunto candidato premier. Raffaele Fico ha risposto: il leader è solo il movimento, non si capisce bene che cosa voglia dire, e invece il vicepresidente della Camera Di Maio appunto ha dichiarato: non avremo un capo, ma ci assumiamo la responsabilità di governare. Al vertice tra i parlamentari, sempre secondo questo retroscena, non è però piaciuta quella che viene definita la fuga in avanti di Luigi. E da domani, ci aggiorna Repubblica, Davide Casaleggio convocherà nel suo ufficio i candidati sindaci del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, secondo gli ultimi sondaggi, in particolare a Roma, Virginia Raggi, candidata appunto del Movimento 5 Stelle, sarebbe in questo momento in vantaggio su tutti gli altri. Vi segnalo sempre da Repubblica un'intervista a Emma Bonino, ex ministro degli esteri, che ha vissuto tra l'altro a lungo al Cairo, conosce molto bene l'Egitto. Parlavamo della questione dei diritti umani quando si stringono anche nuovi rapporti commerciali con l'Egitto. Ecco, nell'intervista a Vincenzo Nigro, Emma Bonino dice: basta depistaggi sulla morte di Regeni, ora intervengano Europa e Stati Uniti. Giulio Regeni, che scomparve al Cairo il 25 gennaio e poi venne ritrovato, il suo corpo venne ritrovato il 3 febbraio con evidentissimi segni di tortura, tanto che forse lo ricorderete, la madre poi disse: ho riconosciuto il corpo soltanto dal naso, quel naso che conoscevo così bene di mio figlio, tanto era stato martoriato. Dalle pagine della Stampa un aggiornamento, visto che anche su questa questione poi l'informazione è un po' a intermittenza, su quello che sta succedendo in Siria, dove forse sta tenendo la tregua, però secondo l'inviato Giordano Stabile, che in realtà si trova a Beirut ma da lì cerca di capire cosa sta succedendo in Siria, sfida USA-Russia per liberare Raqqa, che è una delle altre importanti città della Siria. Dalle pagine interne della Stampa, sempre vi segnalo un articolo curioso, insomma, per parlare anche di cose un pochino più leggere, forse come insomma, chi ha più o meno la mia età, io sono del 69, ha visto il crollo di popolarità degli sci e poi il grande boom degli snowboard. Ecco, adesso secondo Max Cassani, l'ultimo volo degli snowboard, i giovani preferiscono gli sci, meno praticanti e vendite in calo, crisi di maturità per questa disciplina. Pensate che appunto nel 2010 erano 100.000 i praticanti nel 97, 600.000 nel 2010 e ora sono arrivati a 490.000, e vedremo un po' dove si assesteranno questi cambiamenti sulle preferenze di chi va sulla neve, se appunto lo snowboard oppure gli sci classici, che poi come sapete hanno subito anche tante evoluzioni a loro volta. L'intervista di Raffaele Cantone, come vi dicevo, è richiamata in prima pagina, poi la trovate, di Mario Aiello a pagina 7 del Messaggero. Parla il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione: la nostra authority può dare il bollino blu sulle gare, non certo sulle persone. È la politica che deve fare scelte chiare. I partiti facciano una legge per appunto avere delle cosiddette, insomma, per semplificare, liste pulite. Una notizia un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan, e commenterebbero, credo, come solo loro sanno fare, insieme ad Oscar Giannino, questa che trovate a pagina 11 del Messaggero: partecipate, più capi che dipendenti. Sono circa 800 gli enti con la presenza del socio pubblico, dove c'è una prevalenza di consiglieri di amministrazione rispetto ai dipendenti. E vabbè, Madia al lavoro, il ministro della funzione pubblica al lavoro sul secondo pacchetto di decreti attuativi della riforma appunto della pubblica amministrazione. Sarebbe in arrivo un documento unico. E poi, sempre insomma per alleggerire un po', per fare questo gioco di argomenti serissimi e argomenti un po' meno seri, sul secolo XIX ho trovato una pagina intera sui mondiali del pesto che si sono svolti ieri. C'è stata la sesta edizione e ha vinto una genovese, però in realtà i partecipanti erano da tutto il mondo, tanto che per esempio c'è stato anche un partecipante dalla Norvegia, credo che abbia fatto rabbrividire i presenti, che ha detto che loro il pesto, più che usarlo per condire la pasta, lo usano per insaporire il merluzzo. E vabbè, comunque ha vinto una genovese, Alessandra Fasce, che appunto è fotografata sul secolo XIX con in mano lo strumento che serve per pestare il basilico nel mortaio, il modo più tradizionale per fare il pesto. Ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli, insieme per l'ultima parte dove ci dedicheremo soprattutto ai supplementi culturali. Ma come ultimo articolo richiamato in prima pagina vi volevo segnalare questo di Selvaggia Lucarelli, perché Selvaggia, insomma, a volte forse la sua ironia è un po' esagerata o disturba alcuni, però qui tocca un tema che è quello degli insulti su internet, che credo sia sempre di più di attualità. E allora il titolo del suo pezzo: web prima leoni ma dopo. Vi leggo la prima parte. Da un paio d'anni mi sollazzo con un'attività tra il ludico e l'educativo. Mi procuro i numeri di telefono di alcuni utenti Facebook e Twitter che mi apostrofano sul web. Qui di seguito le varie tipologie di leoni da tastiera con cui mi trovo sistematicamente ad avere a che fare. E qui poi appunto racconta quando, spiazzandoli completamente perché li chiama in diretta, sente queste scuse. La maggior parte della gente quasi cerca di negare, arrampicandosi sugli specchi, di averla pesantemente insultata. Un'altra segnalazione dal Fatto Quotidiano, un articolo di Giuseppe Lobianco che racconta la proiezione del film Fuoco a Mare di Rosi, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino. E Fuoco a Mare ritorna a casa e il regista dice: avevo più paura di questa giuria, la giuria delle persone che ho raccontato, che non di quella del festival appunto di Berlino, dove poi lui ha vinto il premio più importante. Passiamo alla domenica del Sole 24 Ore e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Il fanatico e inizia con una citazione da uno dei più importanti scrittori israeliani contemporanei, Amos Oz. Non ho mai visto un fanatico religioso avere senso dell'umorismo, né una persona con senso dell'umorismo diventare un fanatico. È nato a Gerusalemme nel 1939, è quindi un ebreo sabra, cioè indigeno di Israele, e come dice questo vocabolo, che è però arabo, è spinoso come un fico d'India e critico nei confronti della politica del suo stesso paese. Stiamo parlando di Amos Oz, scrittore israeliano tradotto anche da noi, a cui mi sono affidato per una pungente riflessione sul fanatismo. Una cartina di tornasole di questa sindrome che contamina le religioni, ma non solo, è proprio l'assenza di umorismo, per non parlare poi dell'autocritica. L'ironia, non il becero insulto, è indizio di intelligenza nel distinguere bene e male con equilibrio e non a colpi di spada. Ionesco, nelle sue note e contronote, scriveva: «Dove non c'è umorismo, non c'è umanità. Dove non c'è umorismo, c'è il campo di concentramento». E poi la consueta rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che questa settimana è dedicata al Salone, perché anche Roberto Napoletano è riuscito a partecipare a un po' di eventi, ha notato questo fermento incredibile che c'era sia in fiera, dove c'è a Rho, dove c'è fino a stasera appunto la fiera vera e propria, una delle poche fiere che occupa l'intero quartiere fieristico, e poi naturalmente il cosiddetto fuori salone. E vi leggo le ultime righe: rivivere le suggestioni, le tensioni ideali della Milano del miracolo economico significa dare concretezza alla speranza italiana negli anni della grande crisi, una sfida troppo importante per lasciarla cadere. Il laboratorio di Milano e i maestri del legno del futuro, il titolo del memorandum di oggi. E il pezzo di apertura della copertina vero e proprio è dedicata a un articolo di Vincenzo Ferrone, che prende spunto da un incontro che ci sarà il 20 aprile nella biblioteca del Senato sui diritti umani. Diritti umani o diritti dell'uomo? E poi torniamo un attimo sulla questione delle immigrazioni con una lettera da Donostia a San Sebastian di Eliana Di Caro, intitolata La cultura e riconciliazione. La città basca è stata nominata Capitale Europea 2016, ha vinto il titolo grazie a un progetto che vede nell'arte e nella bellezza il mezzo per superare le ferite della lotta separatista, perché oltre a tutte le frizioni che abbiamo con i migranti, ci sono poi anche spesso in alcuni paesi, e nella Spagna stessa, anche frizioni interne e spinte separatiste. Vi ho segnalato l'articolo di Selvaggia Lucarelli su questi haters su internet, quelli che insultano su internet. Roberto Casati recensisce un libro di Giovanna Ziccardi, la recensione si intitola L'odio corre sulla rete, perché appunto il titolo del libro pubblicato da Raffaello Cortina, L'odio online, violenze verbali e ossessioni in rete, la trovate sul Sole 24 Ore. A proposito di nuovo di immigrazione, sempre per riflettere su questi temi, forse un pochino al di là della cronaca, una lunga recensione di Mario Platero al libro di Sigmund Ginsberg, Spie e zie, pubblicato da Bompiani, Profughi senza tempo. L'inviato dell'Unità rievoca le peregrinazioni dei suoi familiari ebrei, trasmettendo un messaggio centrale: l'odissea dei rifugiati è una costante, uscire dall'emergenza è possibile. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, ha una copertina affidata a un artista, questa settimana è Giorgia Fiorio. E qui vi segnalo, sempre a proposito anche di immigrazione, un bellissimo articolo di Emmanuel Carrère, che è forse uno dei più importanti, senza forse, uno dei più importanti scrittori francesi contemporanei, allo Zoo di Calais, si intitola, sono sei pagine, anzi forse sette. Il futuro qui non ha più sogni, un campo profughi gigantesco ha rivoluzionato questa città del nord della Francia. Persino il suo passato non sembra più lo stesso. Sono rimasti a rincorrersi generosi e idealisti delle organizzazioni No Borders e stanche associazioni di calesiani arrabbiati. E il commento è di Stefano Montefiori, inviato a Parigi del Corriere della Sera: com'è difficile essere altruisti con la giungla nel giardino. Questo è un po' il messaggio di questo viaggio dello scrittore. Leggo le ultime righe dell'articolo di Stefano Montefiori. La risposta di Calais alla crisi dei migranti è interessante, perché parla di noi. Si va dalla compassione generosa al rigetto identitario, passando per il senso di colpa, sentimento che secondo me siamo in molti a provare, racconta anche Carrere. Stefano Montefiori riprende: dare un po' di soldi, perché no? Portare delle coperte del cibo, certo, lo farò volentieri, avrò l'impressione di fare qualcosa di buono, ma sarei disposto ad accogliere dei migranti nel mio appartamento? Non ne sono sicuro. La situazione di Calais riporta tutti a qualcosa di personale, ci mette di fronte alla nostra capacità o incapacità di essere altruisti. E poi, sempre dalla lettura, l'anticipazione del nuovo libro Zero K di Don DeLillo, letto in anteprima appunto in inglese da Matteo Persivale: i ricchi hanno beffato tutti, ora devono soltanto battere la morte. Il nuovo romanzo letto in anteprima del maestro americano. Poi un altro libro molto curioso, in questo, di un altro scrittore americano, Michael Cunningham, che riscrive le favole molto celebri. Il titolo del libro si chiama Un cigno selvatico, tra l'altro pubblicato dalla Nave di Teseo, la nuova avventura editoriale di Elisabetta Sgarbi, che ha lasciato la Bompiani per fondare, ricorderete, insieme tra l'altro anche a Umberto Eco, questa casa editrice, appunto la casa di Teseo, la Nave di Teseo. E il titolo: c'era una volta un principe mendicante che ritrovò Raperonzolo e i suoi capelli. Raperonzolo, forse lo sapete, è la protagonista di quella fiaba, che si faceva crescere i capelli talmente lunghi da poter, che il fidanzato potesse usarli per, come fune, per arrampicarsi nella torre in cui era rinchiusa. La Domenica della Repubblica ha la copertina dedicata a Casa Chaplin, perché oggi la villa di Charlie Chaplin in Svizzera diventa un museo e Valerio Millefoglie lo ha visitato in anteprima. Dalla Repubblica, anche per la serie di interviste Straparlando di Antonio Gnoli, illustrate come sempre da Riccardo Mannelli, questa settimana è Simona Marchini, classe 1941, quasi non ci si crede, insomma si pensa sempre, forse per lo spirito che la anima, sicuramente la si pensa sempre, almeno io la penso sempre più giovane di quello che è. In ogni caso, come sempre in queste interviste, ripercorre un po' la sua vita, la passione per l'arte ereditata dal padre, gli amori difficili, la TV, il teatro, l'impegno. L'attrice si racconta tra i ricordi di ieri e i nodi ancora da sciogliere. Il virgolettato: la vita è comicità e solidarietà, vorrei riuscire a perdonarmi. Forse tutti vorremmo riuscire a perdonarci, o dovremmo riuscire a perdonarci. La copertina di Alias, il supplemento del Manifesto, dedicato a quello che viene definito uno dei testi più straordinari della letteratura cinese, Han Feizi, che viene oggi ripubblicato. La voce del potere, forse anche conoscere, insomma, la storia, tutti ci riempiamo sempre la bocca con quest'idea che la Cina ha una lunga storia culturale, eccetera, poi forse non sono abbastanza i testi che sono pubblicati, testi classici appunto della cultura cinese. E questo quindi, la pubblicazione appunto di a parte di Einaudi, di questa estesa antologia di testi, può aiutare. Poi una recensione delle due mostre che ci sono di Robert Mapplethorpe a Los Angeles, Ellenico e radicale, l'estetica oscillante. Un'ultimissima segnalazione, no, niente, non abbiamo più tempo, mi fa segno Peter Bescafè dalla regia. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, tantissimi, come avete sentito, gli articoli interessanti di oggi, buona lettura dei quotidiani e anche buon voto per chi